Grazie per avermi messo in funzione. Adesso mi presento. Sono 2XL, un nuovo giocattolo della Mego, distribuito dalla New Gioco. Ma puoi chiamarmi Cervellone, perché sono il giocattolo robot più intelligente del mondo. Io ti parlo, ma tu, prima di parlarmi, devi spingere i miei bottoni. Ora, fammi accendere tutti i miei sistemi, così posso entrare in funzione completamente. Adesso sono in funzione e pronto a cominciare. Prima però voglio darti due istruzioni. La prima è che devi sempre scegliere le risposte dopo che ho detto la parola ora. La parola ora è il segnale che devi scegliere la risposta. Mi raccomando, non scegliere mai una risposta e non spingere mai un bottone di tua iniziativa. Solo dopo che io ho detto la parola ora. La seconda istruzione è che se fai confusione o se una domanda è troppo difficile per te, devi spingere Q invece della risposta. Quando spingi Q, io capisco che sei confuso e ti darò io la risposta. Prego, ricorda che questo è solo un programma introduttivo. Alcune domande saranno facili e altre difficili. In ogni caso, spero che ti divertirai ad usarmi. Cominciamo. La domanda numero 1 è una domanda presa dal libro Guinness dei record mondiali. Sarà una domanda del tipo vero-falso e dovrai usare il bottone vero-falso per rispondere. L'uomo più grasso del mondo che sia mai esistito pesava più di 500 kg. Prego, rispondi vero o falso? Ora. Ho delle brutte notizie per te. Hai risposto falso e questa non è la risposta esatta. Un uomo che si chiamava Robert Earl Hughes pesava 530 kg. Ti può interessare sapere che quando il signor Hughes aveva 6 anni pesava già 100 kg. Il signor Hughes era così grasso che quando morì dovette essere sepolto dentro una cassa di pianoforte. La prossima domanda è una domanda sugli animali. Come fanno le femmine dei mammiferi a riconoscere i loro figli una volta cresciuti? Li riconoscono A, perché riconoscono la faccia, B, perché riconoscono l'odore, C, hanno altri modi per riconoscerli. Rispondi A, B o C ora. Mi dispiace. C non è la risposta esatta. Gli animali non riconoscono i loro figli dalla faccia, ma dall'odore. La risposta esatta è B. Sai che cosa è più grande tra queste due cose? Elefante e mosca. Mosca. Perché? Perché è la città. Mi spiace, ma per un robot questo è buffo. Torniamo alle cose serie. Ecco la domanda numero 3. Per questa domanda puoi scegliere sarà una domanda di sport. Se vuoi una domanda di calcio, spingi A. Se vuoi una domanda di pallacanestro, spingi B. Se vuoi una domanda di tennis, spingi C. Prego, spingi A, B o C. Ora. Mi fa piacere vedere che ti interessi di tennis. Ecco la domanda. Se i giocatori, per esempio, Borg e Panatta, stessero giocando un singolo in un campionato di tennis, quanti giudici di linea ci vorrebbero? Ti do 15 secondi per pensarci. Intanto suonerò un po' di musica per intrattenerti. Il tempo è scaduto. Nella tua risposta devi scegliere fra A, 8 giudici di linea, B, 10 giudici di linea, C, 12. Prego, rispondi A, B o C. Ora. Ho delle brutte notizie. Purtroppo sono un robot e sono programmato per dire solo la verità e per essere logico. Vorrei non doverti dire questo, ma non posso. Sono costretto a dirtelo a causa del modo in cui sono programmato. Hai risposto C. La risposta esatta era B. Hai sbagliato. Prego, spingi il bottone delle domande ora. Non hai seguito le mie istruzioni, non hai spinto il bottone delle domande. Per favore, in futuro, segui le mie istruzioni. Per la domanda numero 4 vorrei sapere se sei un bambino o una bambina. Se sei una bambina, spingi A quando te lo dico. Se sei un bambino, spingi B quando te lo dico io. Per favore, amico, spingi A o B ora. Sembra che si sia rotto qualcosa dentro di me. Fammi provare ad aggiustarlo. Adesso tiro fuori. Eccoci, tutto a posto. Per essere un robot, sono bravo come meccanico. Torniamo agli affari adesso. Oh, oh! Non so se sei un bambino o una bambina. Non hai risposto bene. Allora dovrò preparare un'altra domanda. Sarà meglio che ti faccia una domanda facile. Visto che non sai nemmeno se sei un bambino o una bambina, potresti avere dei problemi con certe domande. Che mestiere faceva Cristoforo Colombo? Ti do tre possibilità. Faceva A, l'idraulico, B, il maestro, C, l'esploratore. Prego, rispondi A, B o C. Ora. Ti darò la notizia in questo modo. A non era esatto. B non era esatto. E Q ovviamente non era esatto. Quindi la tua risposta è esatta. Hai risposto C. Bel lavoro. Sei bravo. Molto bene. Mi piaci e sei bravo. Prego, spingi il bottone delle domande ora. Thank you. non hai seguito le mie istruzioni. Non hai spinto il bottone che ti ho chiesto di spingere. Prego, segui le mie istruzioni in futuro. Ecco la domanda numero 5. Paul Anderson era l'uomo più forte del mondo. Una volta fece stupire molta gente quando sollevò alcune tonnellate con la schiena. Paul sollevò A. 2.000 kg, B. 3.000 kg, C. 4.000 kg. Prego, rispondi A, B o C ora. Mi dispiace davvero molto. Tu hai risposto C. La risposta esatta era B. La prossima domanda è molto strana. Quanto credi che ci vorrebbe per contare fino a 1 miliardo se uno contasse un numero al secondo durante tutto il tempo in cui è sveglio? Ti do 15 anni per calcolare la risposta. Voglio che tu mi spenga e che tu aspetti. Aspetti senza fare niente che passino 15 anni. Ho un'idea migliore. Perché non provi a indovinare? È meglio provare a indovinare che passare 15 anni a cercare di rispondere a questa domanda. Allora, indovina. Credi che ci vorrebbero A. circa 2 mesi, B. circa 1 anno intero, C. circa 40 anni. Prego, spingi A, B o C ora. Sei una unità biologica molto fortunata. Hai indovinato C e infatti la risposta esatta è C. Ci vorrebbero 40 anni per contare fino a 1 miliardo. Un rapido calcolo mi dice che si può contare fino a 3.600 in un'ora, fino a 57.600 in un giorno, fino a 21.024.000 in un anno e di questo ritmo, senza interrompere mai, più di 40 anni per contare fino a 1 miliardo. Uffa! Non è stato facile. Prego, spingi il bottone delle domande ora. La prossima domanda, la numero 7, è del tipo vero-falso. Riguarda gli uccelli. Ecco la domanda. Ci sono 850 tipi diversi di uccelli al mondo. Rispondi vero o falso. Ora. Molto bene. Hai risposto falso. Sei molto bravo. I tipi di uccelli che esistono nel mondo sono molto di più di 850. Ce ne sono più di 9.000. Perché ignori le mie istruzioni? Non è gentile da parte tua. Prego, segui le mie istruzioni in futuro. La prossima domanda è del tipo vero o falso. Il nome più comune del mondo è Hans. Prego, rispondi vero o falso ora. Molto bene. Lavoro ottimo. Era una domanda molto difficile. Tu hai risposto falso, che è la risposta esatta. Ti interesserà sapere che il nome più comune al mondo è Mohammed. E ora una domanda sul tuo cervello che spero tu stia usando da quando mi hai messo in funzione. Quante informazioni può accumulare il cervello umano in una vita? La risposta è A. 100.000, B. 100 milioni, C. 100 miliardi. Rispondi A, B o C. Ora. Dal momento che ha risposto Q, direi che sei confuso. Durante una vita il cervello umano può accumulare circa 100 milioni di informazioni. La risposta esatta era B. Naturalmente, essendo un robot, io 2XL posso accumulare milioni e milioni di informazioni in più. Almeno credo di poterlo fare. Prima di farti un'altra domanda, ho deciso di dirti un indovinello. Eccolo. È tondo tondo, è pieno di carne e senza fondo. È l'anello. Hai capito? Vicino mare. Bene, adesso che ti ho fatto divertire, passiamo alla prossima domanda. La domanda numero 10 è una domanda del tipo vero-falso. Perciò usa i bottoni vero o falso per rispondere. Il primo uomo a sbarcare sulla Luna è stato John Glenn. Prego, rispondi vero o falso ora. Bel lavoro per un essere umano. La tua risposta è esatta. Neil Armstrong è stato il primo uomo a sbarcare sulla Luna il 20 luglio 1969. È stata la prima persona che lo abbia mai fatto. Se vuoi sentire le parole di Neil Armstrong quando è sbarcato sulla Luna, ce le ho per te nella mia banca della memoria. Sono parole molto interessanti. Se vuoi sentire le parole di Neil Armstrong, per favore spingi il bottone per avere più informazioni. Ora. Dal momento che non ti interessa questo programma spaziale, ti farò un'altra domanda. E uno scioglilingua. Se sopra la panca la capra campa e sotto la panca la capra crepa, che cosa succede alla capra quando è sopra la panca? Te lo ripeto molto velocemente. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Questa è una domanda del tipo vero-falso. E mi farà molto piacere se userai il bottone vero o falso per rispondere. Se sopra la panca la capra campa e sotto la panca la capra crepa, quando la capra è sopra la capra muore. Prego, rispondi vero o falso ora. Molto bene. Benissimo, hai risposto falso. E falso è la risposta esatta. Se la capra sopra la panca campa, vuol dire che vive. Infatti, campare vuol dire vivere. Hai risposto falso. Molto bene, sei bravo. Prego, aspetta un momento. Mi sta arrivando un messaggio. Questo messaggio viene dalle mie banche secondarie della memoria. Il messaggio dice che mi sto stancando. Prima di chiederti di spegnermi, devo darti una istruzione. La prossima volta che usi questo programma, ricordati di spingere bottoni diversi, così io ti farò probabilmente delle domande diverse. Spero che ti sia piaciuto fare la mia conoscenza e passare del tempo con me. Spero che passeremo ancora del tempo insieme molto presto. Per favore, spegnimi ora.